figure, un tipo uguale a te mi si sembra tutto, basta per finizio. E te me, in giro così, se stai guardando a me, cosa ti passa guardando a me, passa a volere tu e a Torellino. E allora come va? E bene, bene, passa a volere tu, perché guardate, per i capelli. E gli ho fatto, a te lì gli ho fatto, forse non ci ha riconosciuto. E ma mi ha toccato, vuol dire, forse non è lui. Ha detto, scusa un attimo, ma sei Salvatore tu? No, sei figura di merda. La mia bella. Beh, l'ho pelastra, come la tua. È un particolare, perché mi sono andato nella base del baracchino. No, ma tu come va il baracchino? Nulla, se vogliamo bene a te. Un bel. Chi è che mi ha detto come mi ascolti? Avanti. E ti sento. Caparroggia. Pagava. No, non so fatto le strova ottava. Avallino. Avallino. Tutti spariti sono. Buh, buh. Ah, il trattore gli ha fatto quello che mi ha detto. Salvatore. Il trattore. Il parlava sa Salvato. Ma se mi hai fatto tutta quanta la cabina, e un po' di lamiera gli ho messo. Stasera stavamo parlando dove stavo lavorando, fino a casa sua. Chi? Salvatore, alla corte, mi ha ritirato un apparato da lui che ha ritirato. Mi ha ritirato un apparato per aiutare, intanto se l'ha ritirato. Hai fatto un bel lavoro allora tu. Siamo sentiti fino a casa tua. Tu hai fatto un bel lavoro allora, una bella massa c'è adesso. Via. Meglio così. Stavo parlando ieri, forse o stasera no, o stasera è qui. Fino a com'è, forse stasera. Appagaffa. Già va bene, va bene. Interessante che abbia una buona massa, perché ho notato che l'altra volta uscivi a tutta a colpi. Sicuramente come fletteva l'antenna, muoveva anche il mozzo e non faceva massa bene. C'è quello, perché c'è la batteria del trattore che c'è l'alternatore che non c'ha niente. La batteria non c'ha neanche un anno e non mi mantiene la carica. La batteria non mantiene la carica, è una batteria nuova, adesso la prendo come quella però più potente, la cerco a terra. E come lo metti in moto il trattore? Per fortuna adesso è il trattore quello per caricare le batterie alle macchine, ai trattori, con quello, se non avevo usato quello lo dovevo prendere con un motore da solo. È un casino. È bruciato, c'è qualche cosa bruciata, no? Come si chiama? Qualche... Affannapoli, qualche, non mi viene il nome. Vabbè, già ho capito, dai. Che elemento, Che elemento volevo dire, sì. E la compri, grande. Già è grande, già. Quanti ampere? 100. Ma questa già mi sembra 600 di sputo e 55 di... 55 ampere e lì spunto ne ha 688. Cazzo. Andiamo bene. Sono molto Ha voglia alimentare, no? Se l'alternatore più grande le voglio collegare i fari, ho 18 fari nel trattore. E le voglio collegare tutti quanti a vedere se mantiene la carica. 18 fari. Meglia. Cazzo. Niente, non so se li hai visti i trattori che ci sono, che lavorano di notte e se quando lavorano di notte sembra che stiano lavorando di giorno. Ne hanno 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 9, 10 e 11, 12, 13 fari stati. Forti, da quanti sono? Da 1000? Da quanto sono? Lampadina di Fenebbia, circa 12 volt. No, di watt, quanto so. Mi sembra che sia una 600 watt. Io ho detto 1000. Io gli altri sono rientrati a casa. Sono davanti alla porta del capannone. Gappa gappa. Eppure oggi ne è fatta. Mi ha fatto più di ieri, perché mi sono trattenuto fino adesso. Più o meno quanto? Un ettaro. Un ettaro. 12 ettari. Quanto? 12 ettari ne ho rullato. Cazzo. E un ettaro, mille... Com'è? Un chilometro, così. Anche un chilometro, eh. Un pieno di gasolio ti fa tutto il giorno. Qua ce ne stanno 2,40, secondo cosa devo fare mi dura anche due settimane. Sì. Isolando non consuma, neanche rullando, ma arando. Vabbè. Arando è un'altra cosa, sforza il motore. Sto chiamando. Al frigo. Lo senti più? C'era la barra agricola, lo senti? Barra agricola, lo senti a cavallino? È piccolo perché sono dentro il capannone adesso. Aiaia. Calma, non c'è più cavallino. C'era Natalino pure, sparito. È stata a berci un bicchiere di varecchina. Che è un po' bere più, né aranciata, né Coca-Cola. Vabbè, varecchina lui. Ciao Luca, ci sentiamo domani. Ciao, sabato, buonanotte, domani, ciao. Ciao. Hai capito che va lì? Non può più bere l'aranciata, né succhi di frutta, né birra, né vino, nulla. Solo acino muriatico e varecchina. No? Riaia. No. No, ma che? Fa male come? Poi per mangiare mangia finali, resistenze. Riaia, per carità. Buone, no? Ora sono quelle, il capoccolo mi piace a me. Mangi capocollo. Buone cazzo, impanate quelle, mamma mia. Tengo una fame che non ti dico. E il pesce no. Noi non mi piace, non mi fido, ecco. Ma vabbè, calamari li mangio, gamberi, quella roba lì sì. Ah, ma è per quello, no, è per la per via della spina. Mamma mia, no, non mi fido io, cavalli, ho avuto brutta esperienza. No, preferisco più roba normale, cioè, non abbia spine. Calamari, anche il grongo si è tirato bene, anche quello. Molte volte la trovi la spina. Che io. Quindi le sardine le mangio. Che giorno sta? Altre giornate, le previsioni. Cos'è? Tele Alghero? Io ho tele... Aspetta. Tele Tirreno. Sì, vabbè, adesso più o meno nord di Sardegna, siamo lì, dai. Ah, Cipartello, lo vedi? Con il digitale. Oh, strano. Cavallino, cavallino. Ciao carissimo. Ciao Luca. Ciao Vito. E ci sentiamo più tardi, dai. Le batterie, ci sono le batterie. Non andiamo a mangiare. Vittorio, andà bene, mi ha spaccato l'orecchio, ma è entrato. Maledetto. E sarà 100 metri da me. Forse 200 anche, va. Chi? No, no, più lontano. Lui è a Sassari Vecchio. E quando è la sua carbonazio? Non lo so. Che usava l'amplificatore? Ma mai lo si dà la talina. E la talina è molto molto più distante, un bombe. Quelli che sono vicino a me più o meno sono Vittorio, Alessandro, Gianni, Claudio e Franco. Roberto è dalla parte di Luna e Sole, dai. E lo stesso, dai. Non è molto lontano da me. Ah. Ma sono tutti qua, là in zona. Dopo. Siamo tutti vicini. Vicini. E attento sono. Che bello. Invece vicino a te chi c'è, cavalli? Attaccati siete, eh? No, più vicino di tutti, a me Adriano, più vicino vicino. E poi vabbè, a seguire c'è Franco, poi c'è... vabbè, Sandro lo stesso è molto vicino, c'erano due passi. Cappa cappa. Casino. Vabbè, ci vuoi fare. Vittorio non mangia che ingrassi. Ma senti il cano, non c'è, non c'è. Thank you. Pino Drago. Quando... e dice il numero, quello lì è il mio numero, brutto coglione. Io lo facevo incavolare, minchia. Yeah. niente. Ci sentiamo alle prossime.